Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ancora di più rispetto a quanto facevo già prima, io sfrutto le vostre parole, quelle che scrivete agli indirizzi di Rock FM, per vivere assieme, ancora più uniti, questo momento. È così che comincia Eclettica anche quest'oggi, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, con Giulio Caperdoni. Negli ultimi 18 anni della mia vita, Radio Rock FM è stata la colonna sonora della mia vita. Quando studiavo all'università, quando ero militare, quando mi sono laureato, quando sono andato a vivere da solo, quando ho sposato una donna bellissima, quando ho divorziato da una donna stronzissima, quando ho conosciuto una stupenda compagnia, quando giravo il mondo con lo zaino mentre gli altri avevano Samsonite nuove fiammanti, quando ho avuto il mio primo figlio, quando ho avuto il mio secondo figlio, quando vado in ufficio vestito come un pinguino, giacca e cravatta con 8 anelli nelle mani, quando ho pianto, quando ero felice. Se la radio verrà chiusa, finirà una stagione della mia esistenza, ma il rock è qualcosa che ti rimane dentro per tutta la vita, ti pervade l'anima. Fino alla fine non ci crederò, fino alla fine la speranza di sentirvi ogni giorno non morirà mai, perché il rock è eterno. Firmato Omar H. Emmerich. Nel 1917 New Orleans era tutto un casino, ma non un casino come questa espressione viene usata oggi con una punta di civetteria, ma un casino nel più antico significato, pre-legge Merlin. Case chiuse di lusso, ornate di specchi francesi, dorati stucchi austriaci e marmi arrivati da Carrara come nella Mahogany Hall, che la padrona, Madame Lulu White, aveva messo su spendendo oltre $40,000 di allora, per ospitare le più belle creole della Louisiana, e via via, fino ai postriboli da un dollaro, dove i pianisti suonavano il ragtime più in voga per allietare l'attesa dei clienti. Una stima dell'epoca ne contava più di 100 ed esisteva persino una guida turistica, il Blue Book, che informava al lettore fin nei minimi dettagli, ubicazioni e prezzi. Tutte le case erano nel French Quarter, o Storyville, dal nome del consigliere comunale Sidney Story, che aveva avuto la geniale idea di crearlo. Ma era troppo vicino al porto e questa fu la principale causa della sua rovina. La situazione si fece infatti sempre più insostenibile. Era a New Orleans che si imbarcavano i soldati che venivano a combattere la Prima Guerra Mondiale e a New Orleans attraccavano i piroscafi che riportavano a casa i feriti, i mutilati, gli accecati per i gas di Ypres e le bare dei caduti. New Orleans, così come si presentava, non poteva fare da cornice a uno spettacolo tanto triste. Questo era ancora Billie Holiday, che palle, di Carlo Loffredo. Thank you. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Della canzone che si è appena chiusa è Dreams ed è una rarità da una compilation che contiene appunto semplicemente rarità per gli The Apples in stereo, invece in precedenza in apertura di Eclettica per quanto riguarda quest'oggi uno di quei nomi nuovi da New York nel caso in questione. Che fossi ipoteticamente un generale sovietico del tempo che fu, mi appunterei sul petto come tante medaglie, orgoglioso di averli trovati. Soundpool, questo è il nome della formazione, con Pleasure and Pain, che vi ricordo ha aperto Eclettica di quest'oggi. Invece ora ci ascoltiamo una band il cui nome è Tokyo Police Club. Ho detto Tokyo Police Club, non Tokyo Hotel. Tokyo Police Club, quartetto che si è formato nell'Ontario a fine 1995, che fino ad oggi era uscito con una serie di intriganti EP e che nel 2008 arriva finalmente all'album d'esordio. Album d'esordio che uscirà per Saddle Creek per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece Memphis Industries per quanto riguarda l'Inghilterra. Le date, nel primo caso il 22 di aprile, nel secondo il 5 di maggio. Elephant Shell è il titolo dell'album dei Tokyo Police Club, dal quale vado ad estrarre una canzone che si intitola esattamente come un film che è nelle sale in queste settimane. Si tratta di Juno. Così, il 2 novembre del 1917, per ordine del Dipartimento della Marina degli Stati Uniti, il quartiere a luci rosse fu chiuso, dalla mattina alla sera, e signorine e musicisti si trovarono improvvisamente a spasso. Non credo che questo fosse un problema per le signorine, ma per i musicisti l'avvenire divenne più nero del carbone. Molti trovarono lavoro sui grossi battelli a vapore con le grandi ruote che risalivano il Mississippi, e diverse jazz band andarono a suonare sui grandi transatlantici che venivano in Europa, ma per i più fu la fame. Le bettole della città non erano molte e i suonatori erano costretti a contendersi il lavoro, sfidandosi per le strade suonando su dei carretti. Chi vinceva rimediava una scrittura, ai battuti non restava che riprovare. Si racconta che il più grande suonatore di New Orleans, il cornettista Joe Oliver, soprannominato addirittura The King, una volta fu sonoramente battuto da un altro trombettista della città, uno sconosciuto che si chiamava Papa Matt Curry. Fu tanta la rabbia del King che prese la sua cornetta in segno di resa e la distrusse, sbattendo la terra. Ma pare che già l'indomani si sia recato di buon'ora ad un Monte dei Pegni per comprarne un'altra. Proprio in quel tempo, Louis Armstrong, che aveva imparato a suonare la cornetta nel riformatorio della città e che campava vendendo giornali davanti al teatro dell'opera e scaricando carbone al porto, fu chiamato in orchestra proprio da quel King Oliver che lo aveva sentito suonare, con il ruolo assai prestigioso di seconda tromba. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. sure you are making the right decision? I think we should stop. Everyone outside gets in. Quit hiding, hiding, hiding.